Monelle, racconti giovanili di Devana. Oi la lepre. Pioveva a dirotto su quello scosceso pendio. Il fango era tanto che entrava perfino nel naso e il freddo poi gelava il cervello, impediva di pensare. Dannazione a questa melma, pensò la creatura che stava strisciando su per lo strapiombo, trascinandosi dietro un'enorme rete piena di pani ormai fradici d'acqua e un cesto altrettanto grande di carote e patate. Sotto allo strato di sporcizia e ai rivoli d'acqua che le correvano lungo la schiena c'era un corpicino magro e lacero di ragazzina. Se mai avesse avuto un nome, non lo ricordava, e in ogni caso nessuno in quei suoi 13 anni di vita l'aveva chiamata in altro modo se non Oilà, lepre! Perché in fatto di arrampicarsi su per i pendii e di strisciare nella notte sapeva il fatto suo. E di certo dannazione non era un'espressione di cui una ragazzina potesse fare uso tranquillamente, ma nessuno in quel cupo anno mille, ora che Dio si era dimenticato degli uomini, sembrava farci caso. Là sopra, dentro alla fortezza, in cima allo strapiombo, asserragliati da mesi, c'erano i soldati che cercavano disperatamente di resistere all'attacco dei barbari. Dall'accampamento degli assedianti la sera saliva l'odore degli arrosti e della birra, che acuiva la disperazione dei soldati costretti a mangiare robaccia. La lepre doveva ogni notte arrivare fino in cima, strisciando per non farsi vedere dai nemici, col suo prezioso carico di viveri, grazie ai quali i soldati, tra cui i suoi due fratelli, Mosca e Veccia, sarebbero potuti sopravvivere altre 24 ore. E dopo ciò doveva, all'alba, tornare a valle e trovare altre cose da portar su la sera dopo. Questo era tutto il suo orizzonte, non sapeva e non voleva sapere altro. I suoi fratelli erano là e la loro vita dipendeva dalla sua capacità di non farsi beccare dai barbari. Nessuno mai l'aveva chiesto dove si procurasse i carichi che portava su, sbuffando e graffiandosi ogni notte, ma era meglio così, alla lepre non piaceva dover dare spiegazioni. Mentre con le mani si aggrappava agli speroni di roccia e si issava senza sosta col suo carico appeso alla vita, e alle spalle, tenendo il corpo rasente alla parete per non scivolare di sotto e cercando gli appigli meno scivolosi, la lepre saliva con gli occhi semichiusi per ripararsi dal fango. Quando fu su, dopo 8 ore abbondanti, si accucciò in un anfratto e fischiò, due brevi e uno lungo, come gli uccelli di montagna. Era il segnale convenuto. Nel buio, silenziosamente, un piccolo portone che sembrava più una botola fu sollevato da una carrucola che strideva piano. La silhouette di suo fratello Veccia, con il testone e i capelli dritti, si stagliò davanti alla luce dei fuochi proveniente dall'interno. «Oilà, lepre! Vieni alla tana!» E lei, sentendo quella voce familiare, partì veloce per buttarsi tra le braccia dell'omone e per farsi dire ancora che era stata brava e coraggiosa. Veccia l'afferrò per le magre braccia e la tirò dentro cercando di non far impigliare il carico agli arbusti. Mosca accorse con una coperta di tela grezza, prese la ragazzina dopo averle liberato la vita dalla rete e le spalle dal cesto e, seguito dal fratello, si precipitò nella cucina dove aveva messo a scaldare un pentolone d'acqua per ripulire la sorella del fango e dal sangue rappreso intorno ai graffi. Così, mentre fuori, sotto l'acqua, i soldati si litigavano i pani e gli ortaggi, i tre dentro si abbracciavano perché ancora una volta erano riuniti. «È ora di finirla con questa storia», fece Mosca con una voce che raspava. «Troppo pericoloso. Finora è andata bene, ma... E poi vorrei vedere se fosse sorella a loro. La bambina è magra, guarda qua!» Tossì convulsamente mentre stringeva un braccino denutrito. Come credono che possa continuare a fare tutta questa strada ogni sacrosanta notte per portare da riempire i loro maledetti gozzi? E non parliamo poi che se la vedono quelli di sotto, figli del demonio, siano dannati, ce la infilzano e magari la danno ai cani. Veccia cercava ogni tanto di interrompere il fiume di parole del fratello senza riuscirci. Quando però l'altro fu costretto a riprendere fiato, con dolcezza lo bloccò. Chetati, Mosca, non serve a niente. L'hanno detto tante volte che la lepre è la nostra unica speranza. Non piace a nessuno mangiare alle spalle di una bambina che rischia la pelle, ma se no possiamo morire tutti quanti e lei restare sola e non avere nemmeno più un posto dove scaldarsi qualche ora. E e dove c'è qualcuno che le vuole bene. L'hanno detto tante volte, sì, replicò polemico l'altro, e hanno detto anche che se la vogliamo vedere deve salire con la roba, oppure non venire più. Questo te lo dico io cos'è, è ricatto, bello e buono, sì signore, ma se le succede qualcosa, se i barbari la prendono, io giuro che li faccio a pezzi tutti e poi li cucino e ce li mangiamo un po' per uno, io e te. Non le accadrà nulla, rispose Veccia arricciando il naso e cercando di essere il più possibile convincente per se stesso e per il fratello. La lepre furba non si farà pigliare, concluse con un'espressione preoccupata e tristemente impotente. Intanto la ragazzina si era scaldata, asciugata e aveva ingurgitato un pezzo di pane mezzo marcio. Era pronta a ripartire per una nuova cerca e si stava stufando a sentire i suoi fratelli che, come ogni sera, perdevano tempo a discutere invece di abbracciarle e raccontarle qualche storia. Gliele promettevano sempre storie di magia e di belle dame, e invece le ore passavano e loro stavano lì a dire che non doveva andare, che però era la loro unica speranza. Ah, con un sospiro risolse a modo suo la situazione, diede un buffetto a Mosca e una veccia e ripartì, mentre fuori quasi albeggiava, per scendere rapidamente senza il carico, mentre i nemici russavano sonoramente. Da mesi ormai durava l'assedio. I soldati dentro alla fortezza erano ridotti allo stremo per la fame e la disperazione. I barbari a valle aspettavano la loro fine, come avvoltoi. La lepre proseguiva imperterrita le sue operazioni notturne. Non mangiava e non dormiva mai. Tutto il cibo che trovava serviva per i soldati lassù e comunque non era sufficiente. Una notte la solita pioggia insistente e noiosa fu sostituita da un acquazzone rabbioso che sembrava voler spazzare via tutto quello che c'era sotto. La lepre stava salendo con dei pezzi di formaggio nella rete che come al solito strisciavano nel fango e delle more nella cesta. Le sferzate dell'acqua arrivarono improvvise e lei dovette per lunghissimi minuti rimanere immobile per abituare il corpo a quella nuova pressione. La violenza del temporale le faceva male sulle braccia e sulle gambe, nude, e guardando bene si accorse che non era acqua, ma chicchi di ghiaccio. I suoi fratelli la chiamavano grandine. I suoi passi diventarono incerti e gli appigli le scivolavano dalle mani. Mise un piede in fallo e ruzzolò per un bel tratto, agevolata dal fango. Il rumore di sterpi rotti non passò inosservato alla sentinella dei barbari, che pensò alla possibilità di beccare della selvaggina da mettere allo spiedo. Svegliò il compagno che dormiva nella tenda vicina e con i suoni gutturali della sua lingua gli indicò il punto da dove proveniva il rumore. L'altro prese una torcia e si avviò, imprecando per il sonno e per il freddo, verso la lepre che nel frattempo stava faticosamente ricominciando a salire. Quando si accorse che una torcia si stava avvicinando, la ragazzina rimase immobile, quasi senza respirare. L'avevano vista, lei che doveva portare da mangiare ai suoi fratelli. Ah, si era fatta beccare, e Veccia invece diceva che era furba, e Mosca poi li avrebbe fatti a pezzi e cucinati. Questo pensiero le sembrò così orribile da farla essere ancora più cauta. Restò ferma, pregando che il carico non rotolasse, sbattuto dalla violenza del temporale. E finalmente la torcia si allontanò. Il barbaro non aveva trovato nulla e quando arrivò al campo diede un pugno sul muso alla sentinella idiota che l'aveva svegliato con le sue fandoni. Da un lato rinfrancata e dall'altro preoccupata di fare in fretta per non far stare preoccupati i fratelli, la lepre cercò di accelerare il passo. Era molto tardi, aveva perso un sacco di tempo e l'acquazzone le impediva di avanzare con un'andatura tale da farglielo riguadagnare. Giunse l'alba, che era ancora a metà pendio. Nel campo i barbari cominciarono a svegliarsi e ad uscire dalle tende. La sentinella, per nulla convinta di essersi sbagliata, continuava a guardare nella direzione da cui aveva sentito provenire il rumore. A un certo punto scorse qualcosa che si muoveva. Sembrava un corpo formato da tre parti, un'enorme formica. Chiamò i compagni, indicò, e a quel punto tutti si convinsero che qualcosa stava risalendo la montagna verso la fortezza. E qualunque cosa fosse stata, loro l'avrebbero centrata con i loro archi. Urlando si precipitarono verso la parete rocciosa e cominciarono a scalarla con gli archi sulla schiena. La lepre era stremata, il cuore batteva all'impazzata per la fatica e la paura. Mancava ancora un po', doveva farcela, doveva stringere i denti e andare avanti prima che la prendessero. Ma i soldati dietro, sebbene non abituati alle scalate, erano freschi di una notte di sonno, asciutti e a pancia piena. La distanza tra lei e i suoi inseguitori diminuiva, già qualcuno incominciava a incoccare la freccia. D'un tratto la lepre giunse in vista della sua botola, era aperta e veccia con il busto, la testa e le braccia fuori, la incitava a fare presto. Dietro di lui poteva vedere il frenetico movimento degli altri soldati che la stavano aspettando. Mancava poco ormai. Suo fratello si sbracciava, i soldati gridavano, i barbari pure, lei non si sentiva più nemmeno le gambe e gli occhi le lacrimavano per lo sforzo. Un barbaro prese la mira su quella creatura, mezza grigia e mezza nera, con quelle due protuberanze attaccate addosso, senza avere la minima idea di cosa fosse. Aspettò che la posizione fosse favorevole e mentre la lepre si slanciava in alto per essere afferrata dal fratello, scoccò la sua freccia, che si andò a conficcare nella schiena della ragazzina. Ma le forti mani di Veccia la stringevano, la tirò su con tutto il suo carico e lei gli sorrise per un istante, prima di accasciarsi sul fianco, mentre Mosca correva con la coperta, pallido come un morto. La botola fu chiusa e i barbari allontanati a colpi di pietrate e di pentoloni di acqua bollente. Mentre i soldati difendevano il baluardo, i due fratelli portarono la piccola nella cucina. La fecero stendere piano piano. Senza parlare, Mosca fece cenno all'altro di prendere un coltello, lo arroventò sul fuoco. E poi, mentre Veccia teneva tra le braccia il corpicino della sorella svenuta, lui incise la ferita, estrasse la freccia e fece uscire sangue in abbondanza, poi pulì con l'acqua calda e le fasciò tutto il torace strettamente. La misero sotto ad un cumulo di pelli, tutte quelle che Mosca era riuscito a racimolare mentre la lepre saliva, e stettero lì a guardare la fronte sottile dalla quale sgorgavano grosse gocce di sudore, e a pregare che l'acqua fosse sufficiente ad allontanare il pericolo dell'infezione. La veglia durò tutto il giorno e la notte seguente. I soldati ogni tanto mettevano la testa nella cucina per avere notizie, ma i due scuotevano la testa mentre la ragazzina lottava ferocemente per tenersi salda la sua giovane vita, ostinandosi a gonfiare i polmoni d'aria e a far battere il cuore. Le interminabili ore passarono e finalmente, all'alba del secondo giorno, la lepre aprì gli occhi mentre Mosca cercava di farle ingoiare un po' di brodo di bacche che aveva preparato uscendo a rovistare durante la notte nei cespugli a ridosso delle mura. Ce l'aveva fatta a superare la prova. I fratelli l'abbracciarono così stretta da farla strillare, lei che non si era mai lamentata in vita sua. Felice pensò che ora le avrebbero raccontato le storie, ora che era stata così brava da seminare i barbari. Si riadagiò, sorridendo, sul giaciglio, mentre Mosca e Veccia la guardavano. I due soldati, abituati a stenti e privazioni, avevano entrambi gli occhi lucidi. Mentre assaporava il momento in cui Veccia, con la sua bella voce, si sarebbe seduto accanto a lei e avrebbe cominciato con: «Lo sai come andò quella volta che la regina dei nani di Tubero perse il suo drago e le toccò di andare da sola a combattere i nemici della patria?» I due fratelli furono chiamati fuori da un fischio. Mosca le rimboccò l'ammasso di pelli che le fungevano da coperta e uscì seguito dall'altro. La lepre sospirò e si apprestò ad attendere, paziente, che finissero di discutere le cose dei grandi. Il tempo passava, la ragazzina si stufava. E nessuno era ancora tornato a raccontarle le storie a cui aveva diritto. Si alzò, avvolgendosi in una pelle come poteva, e uscì nello spiazzo dove attorno al fuoco acceso al centro sedevano tutti i soldati ancora in grado di parlare. Mezzi stracciati, con delle specie di scodelle di cuoio in testa per elmi. La ferita faceva ancora tanto male e ogni respiro era come una stilettata tra le costole. Si tenne nell'ombra e tese l'orecchio per sentire se avessero quasi finito. «Vi dico che non può stare qui. È molto meglio se riparte subito per fare i suoi viaggi. Ha più possibilità di restare viva», diceva uno. «Ma non può camminare. È debole e magra», rispondeva furioso Mosca. «Si è risvegliata da poco e voi già volete che ritorni giù». Lasciamola riposare ancora un po'. Non siamo mica solo noi a digiunare, vero? Mosca? Diccelo, con cosa nutrirai la bambina? Potremmo andare a caccia di notte, suggerì Veccia con la voce che tremava. Già, bravo Merlo. Quassù le bestie non vengono, lo sai anche tu. Altrimenti ci saremmo arrangiati da un pezzo. No, no, l'unica speranza per noi e per lei è che domani stesso riparta. Sicuramente giù ha più probabilità di guarire, troverà qualcuno che la curi. Ma qua ci siamo noi che la curiamo, disse ancora Veccia. Noi le vogliamo bene. Si fa un baffo del bene che le volete voi, rispose seccamente la voce, che doveva essere quella del capo. Col bene non si riempie la pancia, né la sua né la vostra. A quel punto la lepre aveva sentito abbastanza. Era abituata a non prendere ordini da nessuno e quello che faceva, i rischi che correva, erano una sua decisione, nessuno doveva imporglieli. Cosciente dell'enorme sopruso che i soldati stavano costruendo sulla sua pelle, tremando come una foglia per la rabbia e ingoiando spesso per non piangere, uscì allo scoperto e finalmente trovò tutta la forza per gridare quello che pensava quell'ammasso di canaglie. Statemi bene a sentire, voi altri, sibilò piazzandosi con le mani sui fianchi davanti al fuoco che la faceva sembrare ancora più pelle e ossa. I capelli fini come l'aria le si appiccicavano sulla faccia rossa e sudata per l'agitazione. Io non mi faccio comandare. Volete che vada a prendervi da mangiare? Benissimo, so che lo devo fare e nessuno bisogna che me lo dica. Ma una cosa dovete ficcarvi bene in testa in quei cervelli pieni di vermi. Ho il mio diritto anch'io. Perciò nessuno, dico nessuno, mi farà muovere di qui, se prima non avrò sentito la storia della regina dei nani di Tubero. Fine. Scritto a Verona l'8 maggio 1993.